avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fan. Certo, non è che sia un bel tema quello di oggi, poi in questa giornata piena di pioggia cupa. Spero che nessuno farà gesti inconsulti e definitivi ascoltando quello che diremo questa mattina. Questa mattina parliamo di debiti. Parliamo di debiti. È un tema molto vasto. Possiamo dare dei dati certi. Il dato che ho sotto mano dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre dice che mediamente una famiglia italiana ha toccato un indebitamento di 15.930 euro nel dicembre 2009, un anno fa circa. 15.000 euro medi di indebitamento in una famiglia per cosa? Beh, mutui, acquisto case, credito al consumo, finanziamenti, ristrutturazioni. Queste sono le cose banali. Poi esistono tante fattispecie. Esiste quello che veramente, secondo me, è il grande buco nero delle famiglie, è il passo più lungo della gamba. Millantare un tenore di vita non ci si può permettere, quindi fare le vacanze a debito, prendere l'automobile a debito, vivere alla grande, fare le di vita, e questo già potrebbe incidere normalmente abbastanza. Poi esistono ad alcune latitudini alcune spese straordinarie. Ci sono famiglie che impiegano intere generazioni per ripagarsi debiti fatti per sposare una figlia, per fare un grande pranzo di nozze, per fare una grande botta di vita, per far vedere agli altri chi si è, qual è il proprio potere d'acquisto. Poi esiste un rapporto molto individuale, molto personale, con il debito e con il credito. Esiste i soldi chiesti all'amico, esistono i soldi chiesti a presto, esiste il piccolo vizio da soddisfare, esiste uno status temporaneo sopra le proprie possibilità da mantenere, non so, per essere all'altezza di un nuovo amore o per cercare di recuperare un vecchio amore. Anche queste sono persone che conosco che si sono abbastanza svenate per cercare di andare al passo di una persona il cui passo non potevano tenere. Beh, questa mattina mi piacerebbe sapere quanto siete assatanati dai debiti. E soprattutto, anche perché questa è una cosa molto interessante, e come fate a farvi ridare i soldi dalla gente a cui li avete prestati? Esistono delle persone specializzate in questo, munite di chiavi inglesi, tondini di ferro, pinzette elettrificate, che sono specializzati nel recupero crediti. Ma chi non ha a disposizione questo personale specializzato, come fa? Come si fa a dire a una persona: guarda, ti ho prestato dei soldi, perché non me li ridai? Io mi vergogno di chiederli, ma dovresti essere tu di vergognarti che me li devi ridare, e via dicendo. Beh, il tema è molto vasto. Oggi lo affronteremo partendo dalla viva esperienza della carne in una persona che di queste cose se ne intende. Voi intanto preparate il ditino sulla tastiera del vostro telefonino, 800 24 00 24. Buongiorno, sono Giovanni. Io da circa un anno lavoro nel settore del recupero dei crediti, sono un esattore di crediti. Non è un lavoro che amo, mi sono ritrovato a fare questo lavoro per necessità. Ogni giorno io la mattina mi vesto, esco di casa e incontro delle persone che per un motivo o per un altro si trovano in difficoltà. Il recuperante dei crediti, un personaggio che non tutti è detto che abbiano mai conosciuto nella vita. Esistono persone che sono delle brave formichine, fanno sempre il passettino giusto, hanno sempre il soldino pronto, sono sempre tanto bravi a pianificare, organizzare la loro vita, che non hanno mai il problema di dover chiedere soldi in prestito, o sono talmente gretti, talmente avari, talmente poco generosi, talmente poco illusi nel qualità di corrispondenza affettiva e di lealtà al proprio prossimo, che magari non prestano mai manco il becco di un centesimo e quindi non hanno mai bisogno del recuperatore dei crediti. Però esiste un sacco di gente che in realtà teme ogni mattina che bussi alla sua porta e incontra questo personaggio che gli apre una voragine. È quello che gli ricorda quello che magari è il rovello della loro giornata, il rovello della loro esistenza, quei soldi che debbono ridare, che non potranno mai ridare, o per ridare fanno nuovi debiti, vanno in mano agli strozzini, vanno in mano alle vecchie megere, vanno in mano alle società organizzate, al finanziare che questo fanno di turpe mestiere, non quelle lecitamente registrate, e quelle che un po' sottobanco, c'è anche l'amico che ti consiglia, quell'amico che conosce un amico, poi vai lì, entri in delle stanzucce meste in cui vedi però qualche piccolo segno di malcelata opulenza, vedi un bel televisore, delle belle attrezzature di riproduzione della musica, e l'unica musica che sentono quelle persone è quella dei soldi altrui che spremono, che stringono fino ad ottenere più succo di quello che realmente vogliono dare quei soldi, e questo in realtà è il prezzo dell'usura. Alcuni sono morosi perché diciamo ci marciano, altri perché purtroppo si ritrovano in queste in situazioni che sono diventate più grandi di loro. Facciamo qualche esempio. Mi capita di incontrare persone che si sono indebitate per delle attività commerciali, ma mi capitano anche delle persone che si sono indebitate per l'acquisto di un'automobile o di un semplice cellulare o per una carta di credito usata in maniera sbagliata, in maniera errata. Sono un ventaglio di umanità assolutamente eterogenee che va dalla persona che vive nelle case popolari, nelle case ater, fino a persone che vivono in ville e in zone residenziali. Mettetevi un attimo nell'ottica del recuperatore dei crediti. Pensate che fetta variegata di umanità lo incontra ogni giorno. Lui quando bussa una porta già valuterà il tenore della persona che sta al di là di quella porta. Già con un colpo d'occhio vedrà la casa, vedrà la macchina parcheggiata sotto, cercherà di capire da come è vestito, da come risponde, da come si presenta, gli guarderà l'orologio, gli guarderà la catenina al collo, gli guarderà la marca degli occhiali, cercherà di capire se quella persona nasconde il malloppo che lui, per mestiere, professionalmente, deve farlo. È uno sporco mestiere, ma qualcuno deve farlo, che deve comunque cercare di tirare fuori. E si troverà di fronte a un'infinità di scuse, di piagnistei, di lagne, di minacce, oppure si troverà di fronte a persone che cercheranno di svicolare, di rimandare, procrastinare il più possibile, è come se fosse un appuntamento con la morte che sia possibile rimandare, ma un giorno arriverà il momento fatale. 800240024, qual è il vostro rapporto con il denaro prestato, quello che a voi hanno prestato o quello che voi avete prestato ad altri? Massenzio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti. Allora guardi, la mia esperienza è la seguente: io sono un agente immobiliare, lavoro a Roma e come agenzia da diversi anni facciamo anche i mutui. Allora, il discorso è molto semplice. Quando mi presentano le buste paga, magari, che ne so, lui 1.800, lei 1.300, 1.400, è un bel reddito, ma quando vado a scontare la rata del motorino, la rata della macchina del figlio, la rata dell'aspirapolvere, la rata della cucina, la rata delle vacanze, alla fine non ci sono i soldi per dargli il mutuo. L'unica soluzione che tanti, diciamo, che tante società di credito al consumo hanno applicato è rifinanziare il debito, quindi fare un nuovo debito più grande che raccolga tutti i debiti pregressi con un'unica rata. Quindi una sorta di rottamazione dei vecchi prestiti per fare un unico... Sì, così uno ha sott'occhio quello che deve al mondo. Esatto, sì, perché 20 euro che cosa sono? Ma anche questo avrà un prezzo, penso, fare questa sorta di rottamazione avrà chiaro, un prezzo. È chiaro che poi c'è un tag, cioè... E quindi è un'altra forma di strozzinaggio aggiunta a quella... Chiaramente è bello vedere la pubblicità, compri oggi e paghi ad aprile del 2012. E che arriva però aprile 2012. È bello, però c'è un costo. Uno spera sempre che il 2012 finisca il mondo, quindi sta sì, tranquillo. Vinco il Superenalotto, questo è il discorso. Ora, che sta succedendo? Chi magari ha già comprato casa ed è pieno di mutuo, finanziamenti, che cosa fa? Prende un altro mutuo sulla casa più grande e arriva al punto che il debito verso le banche e le finanziarie è superiore al prezzo della casa. Sì, ma chi ci guadagna in tutto questo? Guardi, io confesso che con gli agenti immobiliari non ho un ottimo rapporto. Sto cercando di comprarmi una casa e mi rendo conto che è impossibile. Dovrei cercare di svicolare attraverso la rete fittissima dei suoi colleghi. No, ma guardi, i dati sono semplici. Il 50% degli immobili ancora vengono trattati tra privati e noi non ne sappiamo nemmeno nulla. Io spero di incappare in qualcosa del genere. Se lei cerca un privato lo dovrà sicuramente. No, volevo dire, a parte questo. Chi ci guadagna? E chi ci guadagna in tutto questo? Ci guadagna il mediatore creditizio, cioè quella persona che ancora non è legiferato da nessun tipo di normativa, che è quello che propone alla finanziaria quel cliente, e lo propone magari, spesso succede anche questo, non dico una ciomperia, dicendo che alcuni mediatori creditizi riescono a gonfiare le buste paga dei propri clienti per fargli prendere un finanziamento. E cosa maggiore. Fanno? Aggiungono, non so, dei premi produzione? No, aggiungono, la scannerizzano e modificano. Vabbè, ma questa è una truffa, è un falso, su un atto. Questa è la verità. È un reato grave questo. È un reato gravissimo, ma è la verità. Allora, se io guadagno 1.500 c'è un certo credito, se guadagno 1.800 c'è un altro, se guadagno 2.200 c'è, scansiono un altro. La busta paga e metto un 4 al posto dell'1. Bravo, esatto, questo è il discorso. Ora, per la legge sulla privacy, la società finanziaria non può chiamare il datore di lavoro e dice quanto guadagna Nicoletti, non lo può fare, e quindi si fidano di queste buste paghe che chiaramente ultimamente le società finanziarie si fanno firmare dai clienti. Quindi uno dice ti do una busta paga. Se uno arriva a falsificarla, non è che per lui sarà un problema mettere una firma, secondo me. Appunto, esattamente. Quindi alla fine gli danno di più di quello che lui vuole. Quindi lei comunque mi conferma la mia intenzione, che esiste una sorta di indotto più o meno malcelato, legale, semilegale, totalmente legale, strozzinaggio attorno alla velleità di fare sempre il passo più grosso della gamba. È questo il problema fondamentale. Sì, certo. È così, è proprio così. Grazie Massenzio. Il mio lavoro consiste nel andare a trovare presso il domicilio queste persone. Non c'è un contatto telefonico precedente, si va direttamente presso il domicilio senza un appuntamento e senza nulla. Queste persone si ritrovano sotto il pianerottolo di casa a chiedere loro dei soldi che nella maggior parte dei casi non sono in grado di dare. Il vantaggio di andare direttamente presso il domicilio è che si va a violare direttamente la loro intimità. Loro subiscono fortemente questo tipo di pressione, molto più che una pressione da parte di un legale o dell'azienda creditrice stessa. Cominciamo a entrare nel personale metodo di recupero crediti. Il nostro recuperatore dice: io capito all'improvviso, non prendo appuntamento. Ma grazie, chi darebbe fede a un appuntamento di uno che viene a chiederti soldi? È chiaro, sì vieni, ci vediamo a quel bar, sicuro, certo, ecco, spacco il secondo, è chiaro. Lui va a casa, li becca in pigiama, li becca la sera, li becca a cena con gli amici, è una sorta di presenza. Ma infatti perché vengono chiamati corvi, gufi, sparvieri? Perché? Perché devono dare quest'idea inquietante. Ma nella fattispecie che il recuperatore crediti sia una gentile signora, come si comporta il recuperando colui che deve mollare il malloppo? Rita, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Quali sono le sue armi? Lei è una recuperatrice di crediti? No, allora, io faccio parte di una società, sono una socia di una società di recupero crediti. Lei non va mai di persona a fare il recupero? L'ho fatto anni fa. Se è necessario lo si fa ancora, però è diverso il discorso. Allora, innanzitutto noi siamo dei professionisti del credito, perché i nostri agenti e noi società di recupero crediti siamo soggetti a un codice deontologico. Le aziende, tra virgolette, serie... Signora, sì, per quanto sia, però alla fine il succo di tutto, lei va davanti a una persona che non gli vuole dare i soldi e deve fare in modo che gli dia... Noi cerchiamo sempre di fissare gli appuntamenti, primo. Che però naturalmente funzionerà poco. Ma non è detto. Sì, non è detto, mi scusi. Ci sono tante tipologie di debitori. L'errore principale, sa qual è Nicoletti, è che lei prima ha fatto la domanda, chi ci guadagna in tutto questo? Sì. Ci guadagnano le banche, ci guadagnano le finanziarie, ci guadagnano i broker... Perché quando uno va anche a fare anche un po' recuperatori, se no non avrebbe senso. I recuperatori guadagnano solo se incassano, Nicoletti. Ah, solo se incassate? Noi siamo pagati a provvigioni, Nicoletti. Ma come venditore di aspirapolvere, quindi se non incassate è finita, avete perso se la giornata. Se non incassiamo non guadagniamo. Gli agenti di recupero guadagnano solitamente, ripeto, questa è una cosa. Noi abbiamo un'azienda da 20 anni, quindi un po' di esperienza ce l'abbiamo, e le società serie comunque hanno esperienza, le provvigioni Marino, le prendiamo solo se recuperiamo. Vabbè, adesso non sono qui per parlare dei problemi della vostra categoria. Lei mi deve aiutare, però voglio capire chi si trova davanti, voglio capire l'atteggiamento. Ti trovi davanti innanzitutto persone che effettivamente magari hanno contratto debiti per necessità. Certo, però, chiaro. Chi lavora è necessariamente deve fare debiti. Tante volte ti arrivano un sacco di pubblicità, di più negli anni, nei tempi passati, dove ti propongono finanziamenti perché sei bravo, perché sei una persona che può... Sì, ma a me posso dire una cosa, signora? Non mi fa pena chi abbocca queste cose, perché chi sta nel mondo del lavoro, del commercio, dell'imprenditoria, queste cose deve saperle. Mi parli... La cosa grave, sa cos'è? Ah. Che tu oggi fai un finanziamento e ti permettono di iniziare a pagarlo fra 6-8 mesi. Fra 6-8 mesi lei saprà per certo come sarà la sua situazione. No, ma infatti io non chiedo mai soldi, faccio sempre il passo con la mia gamba. Però mi dica lei, c'è anche, a parte questa categoria di chi lavora si sa, i soldi sono uno strumento importante del lavoro, vanno gestiti e c'è un momento in cui uno deve anche ricorrere al credito, ma lo sprovveduto che si è giocato tutto per una sua botta di vita, come si comporta con questa persona? Allora, se è una persona onesta farà di tutto per pagare e faremo di tutto noi per cercare di aiutarlo con dei... Beh, lasciamo perdere l'idillio. Quando non c'è l'idillio, a cosa ricorre? Non credo che vada con la valigetta, con gli elettrodi. Qualcosa ci sarà per leggermente forzare la persona o farle capire che se non paga succede qualcosa. Non paga e succede che possono attivare delle loro garanzie, delle loro procedure. Noi non possiamo minacciare nessuno perché non sappiamo noi come si comporterà la nostra mandante. Ma ci sono quelli che vanno con la chiave inglese, che ricorrono? No. Però alla fine... C'è gente che si ritrova sotto casa, no, i ceffi. Senta una cosa, allora, solitamente, ripeto, le persone che fanno recupero crediti sono accettate, sono valutate anche dalle questure, perché noi dobbiamo sempre comunicare il nominativo dei nostri collaboratori. Ma quindi io sto tranquillo, posso chiedere soldi a chi voglio, tanto nessuno verrà mai a spezzarmi le gambe, ecco. Sono dei recuperatori particolari, io non li conosco. Grazie signora, sto cercando di fare il quadro completo, quindi mi rendo conto che le mie domande possono sembrare anche fastidiose, ma voglio arrivare al punto che qualcuno mi racconti esattamente fino a dove può arrivare il recupero crediti, perché passate tutte le buone maniere, passate le garanzie, si trova di fronte a un inveterato e simpatico truffatore che non ha nulla a nome suo, non ha nessuna garanzia più da dare, come fate a riprendere questi soldi? 800240024, a tra un istante. Pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé? Pourquoi se séparer? Melog 2.0. Io mi reco presso il domicilio e la prima richiesta che faccio ovviamente è quella del pagamento di questo, di quanto dovuto, onde evitare un'azione legale. Un'azione legale che può portare un atto ingiuntivo. La prima reazione è quella di smarrimento. Dopodiché, difficilmente quando cerca una giustificazione al proprio debito, sanno di averlo, sanno che si trovano in questa situazione e sanno che devono pagare. 800240024, stiamo parlando del recupero crediti, stiamo parlando dei soldi prestati, dei soldi che bisognerebbe ridare a qualcuno, della maniera per farsi ridare soldi, anche situazioni individuali, i parenti, di solito chi non sempre soldi, i parenti, anche gli amici qualche volta, e poi difficilissimo se non impossibile, di solito uno ha sempre timore, ha vergogna di richiedere, di poi passatempo, poi la cosa va in cavalleria e non ci si pensa più. Quello che sta parlando è un recuperatore crediti, una persona che tutti i giorni esce con dei suoi sistemi, con delle sue strategie, cerca di farsi ridare i soldi e ha sempre davanti delle situazioni struggenti, delle situazioni rese ancora più struggenti dalla sua individuale posizione che sentiremo alla fine della sua intervista. Mi viene segnalato su Facebook da un ascoltatore una cosa molto singolare che in parte già sapevo, di una persona che esiste in Spagna. In Spagna pare ci sia una vacatio legis rispetto al recupero crediti, non è ben stabilita la legge, quindi ognuno fa un po' come gli pare. Quindi si sono inventati questo tipo di figura, si chiama el cobrador del frac. È un signore che c'è proprio un'associazione, un'organizzazione a Barcellona, ci sono le pubblicità sui taxi, sui muri, sui cartelloni e via dicendo. Un signore va in giro vestito con il frac, la bombetta, con una cartellina nera con scritto "El cobrador del frac", si mette sotto casa di fronte alla persona e lo perseguita, lo segue sempre, lo sputtana: "Devi dare i soldi, dammi i soldi", urla, mette cartelli. Esiste poi un'altra associazione parallela nata dopo "El cobrador del frac", che va in giro con il frac, e voi pensate, andate per strada, avete un appuntamento, entrate e uscite dal lavoro, vedete questo signore vestito da beccamorto con il frac, con la valigetta, che vi ricorda ad alta voce di dare i soldi a qualcuno. Alla fine è una tortura. Hanno creato anche il monasterio del covro, che sono dei frati, si vestono da frate e vanno sotto casa delle persone a richiedere il denaro. Dovrebbe essere una strategia, un'idea. Amabile, buongiorno. Buongiorno. Sì, io in passato una parente veniva spesso a chiedere un prestito di soldi, sembrava una cifra mediocre da prima, ma che poi ha superato i 5 milioni. Scaglionata, ogni volta gli chiedeva un po'. Sì, scaglionati. Cioè, quando chiedeva, diciamo, il nuovo prestito, lei non le ricordava, diceva: "Guarda, ancora mi devi dare quelli di prima". Sì, ma perché sempre con delle scusanti, e di cui dopo mi avevano detto che loro erano purtroppo stati cosati da sfruttatori, mi aiuti. Erano già in mano agli strozzini. Sì, dagli strozzini. Mm. Allora io dopo le dissi: "Guardate che potete denunciare questo". Certo, c'è una legge. Ma cosa che loro non facevano, perché forse temevano che gli spaccassero le ginocchia. Sì. E allora, in modo che sia io che anche un fratello, altre persone, ma il fratello che mi interessava particolarmente, non che fosse una persona... Beh, com'è andata a finire? È andata a finire che ci abbiamo perso tutti. Ha rinunciato. Abbiamo rinunciato per forza, via legale, che cosa ci costava. E non c'era nessun titolo, quindi poi parenti, presti i soldi, non è che ti fai dare in cambio qualunque titolo, che poi i titoli valgono fino a un certo punto. Ma che titoli, non se ne parlava... Sì, e quando li rincontra cosa fanno? Faccia imbarazzata oppure? Si sono allontanati e lei, devo dire, una cattiveria, sì. Fortunatamente è morta. Fortunatamente. Sì, dico fortunatamente. Vabbè, per 5 milioni mi sembra una pena esagerata. No, dottore, ha tirato in ballo tante persone. Ah, quindi un po' qua, un po' là. Parenti, eccetera, di cui credo che persone di media... come devo dire, stato finanziario. Sì, lei gli dava i suoi risparmietti pensando di fare... Ma sì, credendo che prima o poi, dico, con un anno... Quindi aveva un po' il vizio, faceva questa sorta di vizio. Era un vizio, che ci ha lasciato l'amaro in bocca parecchi. Vabbè, non ci pensi più, ormai è morto. E momentaneamente, dottore, mi permetta di dirle, io ho avuto un inquilino che fortunatamente anche di questo me ne sono liberata, però mi ha lasciato da pagare diversi mesi. Lei crede che io potrò riuscire ad avere quello che mi spetta di dovuto? Chi lo sa? Mica non c'è una risposta a questa domanda angosciosa, signora. Forse sì, forse no, chissà. Siamo quasi dei confessori, a noi dicono tutto, ci raccontano i motivi per cui si sono trovati in quella situazione, tutto ciò che li ha portati a quella situazione lì. Più delle volte queste persone sono sole nel loro dramma, perché di questo molto spesso si tratta, non sempre, ma spesso si tratta di un vero e proprio dramma, di un dramma personale, che non hanno il coraggio di confidare a nessuno, se non, guarda caso, per una strana sorta del destino, all'esattore che viene lì a chiedere loro i soldi. Beh, come il condannato a morte che si confida con il boia mentre fa il filo all'ascia. Il recuperatore crediti, ma forse questo è un caso molto particolare, diventa un po' lo psicologo. È quello che deve acuire il problema della persona indebitata, ma allo stesso tempo ha uno sguardo umano tale per cui si prende anche carico del problema emotivo, del cascame emotivo che proviene da quel debito. Ma forse non è sempre così. Giulia, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto complimenti a lei e alla trasmissione. Io da anni mi appoggiavo alla finanziaria, infatti ho comprato mobili, macchine e tutto. Gli ultimi 4-5 mesi, proprio 4-5 rate, ho perso il lavoro, quindi non potevo far fronte a onorare, insomma. E quindi che è successo? È successo che ha cominciato dopo un paio di mesi il recuperatore. Il recuperatore sempre per telefono mi assillava a qualsiasi ora del giorno. Però lei i soldi doveva ridarli. Eh sì, infatti. infatti, d'accordo, però ecco, volevo parlare di questo atteggiamento. Prima gentile, quando poi dopo diverse telefonate ha visto la mia fermezza, perché per causa di forza maggiore non potevo... Come parli... dicono a Perugia, né che ti voglio da, è che in ci ho, così non ce li ho. Infatti, ecco allora che si trasforma da persona comprensiva in un... di una cattiveria incredibile, appunto. Faccio degli esempi, che voglio capire anche il lato oscuro del recupero, perché sennò sembra tipo frase del tipo io sarò contento, felice quel giorno che arriverà l'ufficiale giudiziario, a chi anch'io rispondevo a tono, insomma deve essere proprio un poveraccio se deve essere felice per le disgrazie degli altri. Però lei capisce il dramma del recuperatore, se lei non ride soldi non prende lo stipendio, quindi sì, lui non mette l'osso nella pentola se lei non dà i soldi. Sì, però vedi, mi scusi, quando poi ha visto non c'è più niente da fare, allora interviene una signora invece, comincia a telefonare lei e di una gentilezza, ecco, quel lato umano di cui parlava prima, questo mi invogliava veramente a fare quasi un altro debito, perché veramente prima c'è quello che prova con le cattive e poi quello con le buone, cioè, infatti e alla fine com'è finita? È finita che per fortuna poi ho ritrovato il lavoro e ha pagato il debito, infatti ok, basta, niente di più, in bocca al lupo. Questo periodo che ho svolto questo lavoro sono stato fortemente colpito da un paio di episodi, in particolare da una signora che, come avevo accennato prima, avrà avuto una settantina d'anni, senza più parenti che la potessero aiutare, con il gas staccato, con il fornelletto per cucinare, il marito defunto. E questa signora piangeva perché purtroppo si trovava in questa situazione più grande di lei. Una situazione veramente drammatica, il recuperatore si ritrova con la vecchia alla canna del gas, è colpito fortemente, ma perché è colpito così tanto? Perché è così atipico questo recuperatore rispetto a altre figure che ci stanno delineando i nostri ascoltatori? Perché? Perché anche lui ha dei debiti, anche lui è un creditore. C'è un paradosso in tutto ciò, che io sono a mia volta un debitore. Io ogni mattina esco di casa per andare a esigere i debiti e ogni mattina incontro me stesso. Io per mia fortuna non ho subito mai visite da parte di esattori, però sono comunque continuamente martellato, tartassato da istituti di recupero credito che mi contattano per sanare le mie posizioni debitorie. Si crea di conseguenza un paradosso, perché io da debitore mi metto nei loro panni, cosa che non dovrei fare, cosa che non dovrei assolutamente fare, però io da debitore ogni giorno mi devo vestire in giacca e cravatta, con il mio dramma interno mi devo rivestire, vestire di allegria, fra virgolette, e andare a lavorare e andare a recuperare i debiti da persone che sono esattamente nella mia stessa condizione. Io l'avevo detto che oggi non era una trasmissione allegra, ma hai sentito che loop incredibile. Questa persona vive e si mantiene andando a fare il recupero crediti, ma il suo datore di lavoro è paradossalmente anche il suo creditore, quindi lui stesso è un debitore. Quindi lui esce la mattina con l'angoscia del recuperatore crediti che lo tartassa, lo chiamano la mattina, gli danno appuntamento, dicono devi ridarci i soldi. Lui sa benissimo qual è la situazione della persona che sta dall'altra parte, che se lui non dà i soldi a quella persona non mangia, quindi si accanirà contro di lui, ma per soddisfare quella persona deve andare ad altre persone che a loro volta hanno dei creditori che pretendono i soldi, e deve sulle spalle dei debitori che vede così tristemente spalmati nel loro quotidiano, la vecchia con la canna del gas, la persona che piange, la miseria, e quindi da questo circolo tremendo di soldi da dare e soldi da avere non si esce proprio. A tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ah, t'ho beccato, Pora nonna. Pora nonna. Ma che sta a dire? È morta stanotte, è morta. Guarda, lascia perdere, nonna, morta, rimortacci tua con me, non attacca. Buona, Mandrà, è morta per davvero. Lo senti? È morta. Pora nonna, la stanno a pregare. Non me fido, voglio vedere. Oh, nonna, è andata lassù, mi ha lasciato. Anche questi signori si sono resi conto che non era il caso davanti alla disgrazia. Erano venuti perché ci abbiamo dei conti in sospeso. Ma non ci sono debiti che tengono quando si paga il debito al signore. Avomà, c'hai 10 giorni di tempo. Grazie al vostro buon cuore. Erventresca. Mandraghe, piacere. Belli capelli. Coraggio, mandraghe. Il ruscio. Mandraghe. Mi inchino e non ho nulla da aggiungere, sennò rovinerei il pathos di questa imperdibile reliquia di Febbre da cavallo, in cui si parla della scusa del debitore, inventa la nonna morta. La scusa pronta è sempre una delle situazioni da cui si esce meglio, ma in un momento ancora di gestione del rapporto fra recuperatore crediti e debitore, che poi si arriva al punto in cui non si può più gestire questo rapporto. Paolo, buongiorno. Io ho sentito parlare finora recuperi crediti bravi, un po' meno bravi. Io ho conosciuto proprio quelli cattivi. Per finalmente qualcuno mi racconta questo. Sì, esatto, non in prima persona, era una cena di ex karateka, cose del genere. No, perché so che esistono, se no parliamo sempre dell'aspetto confettato della realtà. Sì, è vero, ma io penso che sia soltanto la... Ecco, ma chi li usa quelli? Li usano gli strozzini, l'ultima catena sì, del... Sì. Ah, questo qui, l'episodio che voglio raccontare è incredibile, perché io ho conosciuto questo piccolo imprenditore che è andato a fare le costruzioni, una ristrutturazione, un appartamento di un signore, una piccola villetta, 160 milioni. Vabbè, chiaramente questo qui non pagava, e dopo 2 anni, combinazioni a questa cena, ci si trovano un signore di Avellino che fa recupero crediti, e questo qui, e si parla... Beh, non è perché di Avellino deve per forza... Sì, esatto. No, combinazione, va bene, sì. Non dovevo dire... Casualmente, sì, sennò sembra... Casualmente, beh, chiaramente. Morale del discorso, dice, ma io faccio recupero crediti, e questo qui si mette, ma io ho un problema qui, lassù e giù, devo 160 milioni. Questo qui dice, senti un po', ti vanno bene 80? E io ho detto, ma 80... Meglio di niente. Meglio di niente. Vabbè, dopo una settimana avevo un settino con 80 milioni in contanti. Ora, poi mi sono fatto spiegare cosa è successo. Sto qui è entrato dal debitore. Appena il debitore ha aperto, gli ha stampato un pugno nella faccia che gli ha lasciato 8 denti per terra. Così, al volo. Gli ha suonato come un tamburo, poi ha detto, guarda, ti diamo 7 giorni di tempo. Se tu non ci paghi, tua moglie sì, è anziana, però pensiamo che 100-200 mila lire a sera le riesce a fare. Tua figlia è giovane, almeno 2,5-3 milioni a sera. Cioè gli mandavano a battere la famiglia. Bravo, quella era la minaccia. Questo qui come un razzo, dopo 7 giorni aveva chiaramente aveva pagato. Sì, ma ha pagato 160 o 80? No, ha pagato 160 milioni. Quindi 80? 80 se le tenute, le recupero crediti tra virgolette, e 80 all'altro signore. Adesso diciamo, questa storia mi sembra in parte un po' fantasiosa. Assolutamente al 1000%. Quindi allora accade questa, perché esiste questa frangia delinquenziale del recupero crediti? Certamente, questo qui ha detto, ma se gli ha detto sì e io te li porto, non ha mica visto niente, non ha partecipato sì, a niente. Però è complice di una violenza privata indicibile. Senza ombra di dubbio, però è andata così, io le sto soltanto raccontando. Quindi esiste un tramite illecito, occulto, detestabile, per cui chi proprio è disperato, passate tutte le agenzie autorizzate, passate tutti i recuperi crediti, passate tutte le vie legali, si rivolge al signore che dice te ne ridò la metà, tu non ti preoccupare, comunque qualcosa riprendi. Poi sotto, se c'è la carne tritata e stridor di denti, non se ne deve, uno non deve farsene un problema, però naturalmente. Con 4 kg di 4 metri di pelo sullo stomaco, su quello non ci piove, però è andata così. Sì, però l'altro i soldi ce li aveva alla fine, non è che non ci... Ma no, faceva, non so, sai quando gli appalti cerchi di trovare il pelo nell'uovo per non pagare, e ha sbagliato la colorazione e la tegola era più sporta ma era più dritta. Sì, ho capito, faceva un po' il paraculo e gli è andata male. Grazie, abbiamo al telefono Giuseppe Bertolussi, buongiorno. Buongiorno a voi. Segretario della CGA di Mestre, Associazione Artigiani Piccole Imprese. La trasmissione nasce da voi, che avete fatto questo rilevamento sul debito medio della famiglia italiana. Lei ha ascoltato tutto l'iter, siamo partiti dal recuperatore crediti gentile, da quello appassionato, da quello introverso, da quello a sua volta che era debitore di qualcun altro, siamo arrivati a quello che spacca i denti. Sono tutte circostanze che voi conoscete, avete testato, ne avete testimonianza anche voi? Sì, l'usura essenzialmente si regge su questo, sulla capacità poi di recuperare in ogni caso a qualsiasi costo il credito. E quindi esiste il ricorso, diciamo, alla violenza? Ma quasi sempre. Ma perché questo? Perché non ci sono carte scritte? Perché non è possibile ricorrere poi alle vie legali quando questi ti chiedono di più? Ma poi ci sono forme anche molto interessanti, per esempio c'è qualche piccola impresa che va dal fornitore, gli danno il materiale, ma poi si trova a credito. In questi tempi è difficile ottenerlo, beh, qualcuno te lo dà, però poi ti trovi con degli interessi usurari. Ma dopo c'è anche il discorso del caso di qualche libero professionista, magari questo non riguarda ovviamente tutti, ma a cui viene dato il libretto di assegni e stacca lui l'assegno per l'imprenditore e quindi gestisce lui l'impresa invece che l'impresa. Sono tanti casi nell'usura, tantissimi. Diciamo, è abbastanza facile finirci dentro, anche se uno è un po' smaliziato, oppure bisogna proprio andarsela a cercare? Ma guardi, per fortuna in certe parti del paese c'è una rete, direi, che è quella familiare, dove tu trovi magari la possibilità di avere il prestito dal cugino, dal fratello, dallo zio, poi c'è, e quindi questa è la rete della famiglia estesa, poi c'è purché la uno rete... poi restituisca i soldi, come diceva il buon Beniamino, certo, Franklin, giusto. Colui che restituisce i soldi prestati è padrone del proprio borsellino, di quello e tutte le persone a cui li chiede. Esatto, bravissimo. Poi c'è il fatto della rete diciamo di consorzi fidi, che questi prestano i soldi, danno la garanzia alle banche del 50%, lei capisce. Poi anche in certe parti del paese ci sono tanti sportelli bancari, per cui c'è forte concorrenza e anche più facilità quindi di prestare. In quel caso l'usura è, diciamo, meno frequente, in altre parti del paese lo è perché manca questa rete che le descrivevo e quindi l'usura diventa abbastanza facile. Questo comunque è un altro tema che varrebbe la pena di affrontare, perché, certo, dopo aver passato il recupero crediti, parlare degli strozzini è interessante. Sentiamo Alberto, l'ultimo minuto. Alberto, recuperatore crediti ha un metodo infallibile. Sì, sono in linea? Sì, in linea, veloce perché c'è un minuto. Sì, niente, il metodo, noi lo chiamiamo il metodo del mignolo. Praticamente, gli spezza un mignolo? No, non si spezza, si sversa. Abbiamo prima avuto informazioni di non poter, di non rovinare la mano, eccetera, come si deve fare, insomma, si sversa e fa un dolore atroce. Cioè lei prende un mignolo e glielo storce. Però, un momentino, c'è una premessa da fare, ci sono due tipi di debitori, quello che vuol pagare non li ha e quello che non vuol pagare. Quello che li ha e non vuol pagare... gli storce il mignolo. Ma non è un reato, non può denunciarla per... No, perché non, torno a ripetere, non si rovina il dito, si storce all'incontrario. Ah, lei conosce una maniera per fare male senza rovinare il dito. Esatto, perfetto. È una cosa scientifica. È abbastanza, però funziona. Noi abbiamo sempre portato a casa. E questi urlano, strillano, si inginocchiano e poi pagano. No, ma non pagano subito, noi gli diamo tempo fino alla fine della settimana. E come dice, la prossima volta te lo spezzo. No, e sono loro che devono chiamare noi. Benissimo, questa era la metodologia che mi interessava sapere. Esiste un metodo pulito, fra virgolette, per fare una coazione fisica, un'azione di violenza sulla persona e farsi ridare soldi. Storcere il mignolo però è un segreto come un maestro di Kung Fu, non ve lo racconterà certo il nostro ascoltatore. A domani. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.